Spirit Boy Family. Check, check. Oh, oh, Spinta 7, SMF. Famiglia completa, oh, oh. Mani su, dai, zio. La mia vita è no limits, come su photo finish. Castro le rime con i bro davanti al bimish. Il gancio è lo stesso, mi flash. Io so fresh, no mesh cash. Ma la vita crash, bam, bam. Inizio una guerra, sprovvisto di pallottole. Zero sbatti se mi racconti frottole. Cerca completo, make up. Un calcio nel culo con la tecnica del mad big up. Sono stufo dell'ignoranza, la fattanza. Strazia in terra santa. Marca male come su pullman. Mi faccio scoppiare pensando a Uma Thurman. Alta tensione, gomito a gomito. Sulla parabolica mi viene il vomito. Crypto il fattore sfida e con la spingo. Il mio falsetto spara più di mica. Zio, bastardi, non volete aiutarci. Commercializzarci per guadagnarci. Spesso o spacci o non mangi, zio. Zero ganci, qua prendi i calci. Ma bastardi, non volete aiutarci. Commercializzarci per guadagnarci. Spesso o spacci o non mangi, zio. Zero ganci, qua prendi i calci. No, ma vita. Nel posto ce la spingo, tu tiri sulla mano. A noi ci chiamano spingo perché te lo spingiamo. E mi ritrovo nella stanza della festa. Gira la testa qua finché si mescola. Spina nel fegato quando c'è, muovi il collo. Sembra talco ma non è tipo pollo. Che serve a darti l'energia quando viene al party o quando parti e viene a casa mia, zia. Novità sane su Tio, vedi lo switch. Mentre faccio un touching go al the beach. Atterro sulla spiaggia di Baywatch e schiaccio Mitch. Se la gente se la scalza, fai pay blood, io vesto kid. Ogni volta che ti incontro guardi male, non sei pronto. Criminale con il piombo, puoi forare solo un condom. Tu vuoi fare il tipo a posto, poi vuoi fare il tipo losco. Tu vuoi fare, se vuoi fare cambia posto. Bastardi, non volete aiutarci. Commercializzarci per guadagnarci. Spesso o spacci o non mangi, zio. Zero ganci, qua prendi i calci. Ma bastardi, non volete aiutarci. Commercializzarci per guadagnarci. Spesso o spacci o non mangi, zio. Zero ganci, qua prendi i calci. Ma veloce pazzo sì, come una Type R. No, non ascoltare questo pezzo se sei uno che si offende. Deciso di brutto, te non hai capito. Prendo tutto, me ne vado, amico, ti saluto, ciao. Con il suono elettro stile Daft Punk passo dal retro e ti porto un po' di super scan. Superando la madama alla Boston George, con la gente che mi acclama come fossi su una Porsche Turbo. Sono un boss e quando passo ti disturbo. Sei il pass, io te lo rubo. Sono furbo, non è una festa, raga, questo è un incubo. Solo fighetti, ma prendetela nel culo. Odio per certo la stronza femminista e quella che critica se faccio la mista. Zero lista come dice Vasco e Tardi. Zero piste, esco, siete dei codardi. Bastardi, non volete aiutarci. Commercializzarci per guadagnarci. Spesso o spacci o non mangi, zio. Zero ganci, qua prendi i calci. Ma bastardi, non volete aiutarci. Commercializzarci per guadagnarci. Spesso o spacci o non mangi, zio. Zero ganci, qua prendi i calci. Ma